Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Mafia Capitale, si ragiona su un commissariamento per il Giubileo e secondo indiscrezioni Renzi starebbe facendo pressioni per le dimissioni di Marino. Il premier intanto dice lotta senza quartiere alla corruzione. Immigrati e richiedenti asilo distribuiti in Veneto, Lombardia e Liguria in centinaia hanno dormito in stazione a Milano, altri abbandonati nelle piazze dei paesi. Zaia dice non vengano portati nelle località turistiche. Jobs Act, dopo i nuovi decreti attuativi, i commenti, i decreti condivisibili, dice Confindustria, per la CISL è tutto bene, ma è migliorabile. Secondo la CGIL resta il tratto fondamentale, svaluta il lavoro. La Germania si preparerebbe all'uscita della Grecia dall'euro, sostiene il tabloid tedesco Bild. Merkel sulle ipotesi di accordo, la volontà deve venire da entrambe le parti. Aveva chiesto i biglietti ad un gruppo di sudamericani, forse appartenenti ad una gang di latinos, e l'hanno aggredito con un machete, ha rischiato di perdere un braccio, un capotreno a Milano. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e numero di sms durante la diretta, il 349-238-6666. In apertura parliamo di politica, mescolata ancora una volta a vicende giudiziarie. Dopo tutto quello che è successo per quanto riguarda Mafia Capitale, andiamo proprio in Campidoglio. Rischia di saltare, almeno queste sono alcune indiscrezioni che circolano oggi sui giornali, il sindaco di Roma, Ignazio Marino. Di certo il governo starebbe pensando a un commissariamento della città per la parte che riguarda la gestione del Giubileo. Blindato il sindaco Marino, Matteo Renzi punta ora ad affiancargli un commissario straordinario per l'organizzazione del Giubileo. La scelta cadrebbe sul prefetto di Roma, Franco Gabrielli. All'ex capo della Protezione Civile spetterebbe così la gestione dei fondi e la firma degli atti legati all'anno santo, che inizierà a dicembre. Il decreto per la sua nomina sarebbe pronto, ma nella riunione del Consiglio dei Ministri di ieri sera il governo avrebbe deciso di rinviarne di qualche giorno l'approvazione. Per ora non sono state ancora prese decisioni, fa sapere il ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il testo del decreto ieri sarebbe arrivato in Campidoglio, dove avrebbe provocato la reazione irritata di Marino. Una ricostruzione smentita però dal comune, che in una nota stamattina precisa che sull'organizzazione del Giubileo, sul quale amministrazione capitolina e governo lavorano insieme da tempo, non sono state prese misure amministrative. Smentite anche le frasi virgolettate attribuite al sindaco, che nel frattempo oggi è volato a Londra per un incontro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ancora vicende giudiziarie che si intrecciano con la politica sono quelle, ancora una volta, che riguardano l'inchiesta di Trani sulle case di cura Divina Provvidenza, che hanno portato alla richiesta di arresto per Antonio Azzollini, capo della Commissione Bilancio del Senato, del nuovo centrodestra, e c'è una sorta di contrasto tra NCD e il Partito Democratico su come si vota, perché il PD è intenzionato a votare sì. Facciamo il punto con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Vicende giudiziarie, dicevi Simone, legate ai centristi che rischiano di incrinare i rapporti nella stessa maggioranza. Al momento nel partito di Alfano si invoca prudenza, ma certo il caso Castiglione prima e quello Azzollini poi agitano senatori e deputati di Area Popolare. Nessuno strappo politico a breve, insomma, ma il rischio di ripercussioni soprattutto a Palazzo Madama, dove i margini della coalizione di governo sono labili e restano alti. A mettere qualche punto fermo è oggi lo stesso Alfano, che si dice pronto a scommettere su onestà e correttezza del sottosegretario Castiglione, mentre per il presidente della Commissione Bilancio del Senato Azzollini ricorda che si può indagare e anche processare una persona senza necessariamente usare la detenzione preventiva. Quanto al pressing di ieri del Partito Democratico, con l'ipotesi anche del sì all'arresto quando si voterà in Parlamento per Azzollini, oggi dal Nazareno frenano con il deputato Carboni che dice: leggeremo le carte con scrupolo e serietà, senza pregiudizi e senza fare sconti a nessuno. Simone. Sì, Vincenzo, ti voglio portare, sempre rimanendo in tema di politica, in realtà sull'attività di governo, perché ieri c'è stato un Consiglio dei Ministri importante, quello che ha varato gli ultimi decreti attuativi sul Jobs Act, ossia la riforma del mercato del lavoro. Ci sono delle revisioni per quanto riguarda la cassa integrazione, per esempio, e non solo. Oggi, tra l'altro, stanno arrivando anche i giudizi delle parti sociali, Vincenzo. Eh sì, è così, fronte quello del Jobs Act che vede numerosissimi tantissimi commenti, partiamo dal sindacato, confermiamo il nostro giudizio, dice Camusso, CGIL, il progetto non era di investimento in termini di qualità del lavoro ma di una sua riduzione. Passi in avanti però per la Camusso ci sono su cassa integrazione sul tema della conciliazione vita e lavoro. Il testo è migliorabile ma è positiva, l'estensione degli ammortizzatori alle piccole imprese, l'aumento dei congedi parentali, la rinuncia ad intervenire sul salario minimo, commentano dalla CISL. Infine Confindustria, decreti complessivamente positivi quelli del Jobs Act, secondo il presidente Squinzi, dobbiamo sempre fare una valutazione complessiva, aggiunge Squinzi, lasciamo arrivare in fondo l'operato del governo. È tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Noi restiamo sui temi economici ma ci spostiamo sulla Grecia, dove ancora una volta e ancora oggi proseguono le trattative tra indiscrezioni e voci che arrivano anche dai quotidiani tedeschi, che parlerebbero di un governo tedesco appunto che si prepara all'uscita della Grecia dall'euro. Ma oggi parla anche Angela Merkel. La démarche du Fonds monétaire international, comme voulant dire que le Fonds monétaire international se retirerait. Ci prova il presidente della Commissione a dare un peso ai fatti. Non si può interpretare la decisione dell'FMI come un ritiro dai negoziati. Credo che una soluzione sia necessaria. Ho passato molto tempo con Tsipras ieri e mi aspetto di passarne ancora nei prossimi giorni. Juncker però non può negare che lo spazio e il tempo si stanno esaurendo. Oggi la Bild scrive che la cancelliera si sarebbe rassegnata al fallimento. In pubblico la Merkel ha affermato che la volontà deve venire da entrambe le parti. Questa sera i membri del gruppo di Bruxelles, nato sulle ceneri della Troica, saranno ad Atene per discutere ancora, anche se il nodo principale resta sempre quello della riforma delle pensioni. Età pensionistica troppo bassa e assegni troppo alti. Forse Tsipras potrebbe accettare di mandare giù un boccone più amaro di quanto avrebbe voluto e con lui si starebbe preparando tutto il partito. Ma in cambio il premier deve portare a casa un taglio del debito e qualche mese di tregua. Nessun bluff, ribadisce il ministro delle Finanze Varoufakis a chi lo accusa di scommettere al tavolo con i creditori, e rimanda a un articolo scritto per il New York Times nel febbraio scorso, in cui scorrono i concetti che Varoufakis ripete da sempre. La Grecia intende onorare i suoi debiti, ma non può contrarne altri. Abbiamo bisogno di stabilità finanziaria per ripartire, esattamente là dove vuole arrivare Tsipras. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E visto che abbiamo parlato del Fondo Monetario Internazionale, beh, c'è anche una notizia di cronaca che riguarda l'ex capo del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn. La notizia è di pochi minuti fa. I giudici francesi hanno annunciato il proscioglimento di Strauss-Kahn, lo ricorderete, era imputato in un processo su presunti festini a luci rosse e un giro di squillo all'Hotel Carlton di Lille. Ebbene, Strauss-Kahn è stato assolto. Torniamo all'Italia per parlare di immigrazione, perché le immagini ce le avete negli occhi tutti quanti, quelle che si vedono alla stazione di Milano da una parte, alla stazione Roma Tiburtina, ne abbiamo parlato tra l'altro ieri, insomma è un momento nel quale la gestione sta diventando complessa ai servizi. Spero che sia il picco, perché se dovessero arrivarne ancora di più lo vedete voi com'è la situazione. A parlare è Giorgio Ciconali, direttore servizi igiene e sanità della ASL di Milano. È fra le persone che stanno prestando assistenza insieme ai volontari delle associazioni coordinate dal comune alle centinaia di immigrati e richiedenti asilo arrivati nella stazione centrale di Milano. I need work and I need freedom. Tra loro Biniam, giovanissimo eritreo, giunto a Milano dopo un lungo viaggio tra Sudan, Egitto e Libia. Vuole soltanto lavoro e libertà, ci dice. Nel mezzanino della stazione aspetta di poter partire per la Svizzera. È accampato insieme agli altri dentro e fuori lo scalo milanese. Molti hanno passato la notte qui con i passeggeri che fanno lo slalom tra loro per raggiungere i treni o uscire dalla stazione. Ancora Ciconali. Mi risulta siano stati trasferiti 100 migranti in alcuni centri, ma tanti ne trasferisce e tanti ne arrivano. Io stamattina ho trovato quasi più gente di ieri nonostante questi 100 trasferimenti. Stamattina in stazione è stato attivato anche un presidio sanitario permanente della ASL per un primo soccorso ai migranti malati. Un pulmino caricato 12 migranti sospetti scabbia che in questo istante preciso sono in Viale Jenner all'attenzione dei dermatologi nostri della ASL di Viale Jenner. Per fortuna nulla di particolarmente particolarmente grave, però hanno bisogno di assistenza questi ragazzi. Ad accogliere i profughi, in questi giorni soprattutto eritrei, ci sono volontari di ogni età, dai più giovani alle più esperte, come Marisa Cingoli, 79 anni. Con gli eritrei noi abbiamo poca esperienza, li conosciamo da pochi giorni, perché prima erano da un'altra parte, noi ci occupavamo solo degli siriani. Signora, state distribuendo di tutto, succhi di frutta, colazioni? Di tutto, quello che abbiamo e quello che ci portano, frutta, brioche, di tutto. Lasceranno l'Italia i migranti, sperano di farlo il prima possibile, come spiega Fabio Pasiani della Fondazione Arca. Vanno verso il nord Europa, vanno verso la Germania, vanno verso la Svezia, la Danimarca, l'Olanda, ognuno di loro ha un cammino prestabilito, quello che è certo è che il 99,9% di loro ha come destinazione un altro paese che non è l'Italia. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Via subito tutti i profughi dalle località turistiche del Veneto. Questo è il senso di una lettera ufficiale inviata oggi dal presidente della regione Luca Zaia a tutti i prefetti. A 48 ore dal voto per il ballottaggio a Venezia, Zaia chiede lo sgombero con la massima urgenza di tutte le strutture ricettive e degli alloggi già occupati dai migrati nelle località turistiche. La tensione sul tema resta comunque alta un po' in tutta Italia. A Roma ieri è stato sgomberato dalla polizia un accampamento di un centinaio di profughi alla stazione Tiburtina. Il responsabile della Onlus Medici per i Diritti Umani, Alberto Barbieri. È una situazione insostenibile, gestita malissimo, che oramai va avanti da tempo, perché questo problema c'è dall'anno scorso. Si sta riproponendo ovviamente quest'anno, nel senso che continuano ad arrivare le persone. Noi nella clinica mobile la sera prima avevamo visitato una donna incinta di 8 mesi, bambini di 2 o 3 mesi con violenze indescrivibili subite. Non è stato messo in piedi in tutto questo tempo un minimo servizio di assistenza. Sono invece appena arrivati alla fiera di Genova 50 profughi dell'area subsahariana. Per domani è previsto l'arrivo di altri 49. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di questi temi torneremo a parlare tra poco. Lo faremo tra l'altro con Pier Francesco Maiorino, che è assessore alle politiche sociali del Comune di Milano, insomma, proprio per capire com'è possibile che si trovino centinaia di richiedenti asilo o immigrati proprio nel mezzanino della stazione. Parleremo anche con Marzio Favero, sindaco di Montebelluna, un comune veneto. Marzio Favero che l'altro giorno si è ritrovato 15 profughi in mezzo al paese e lo ha appreso da Facebook. Quindi di questo torneremo a parlare tra poco. Intanto restiamo però su Milano, dove ieri sera c'è stata un'aggressione a un capotreno. Il personale in servizio sui treni è ormai trasformato in vittima inerme di questi atti di violenza. Così, in una nota, Ferrovie dello Stato condanna quanto accaduto a Milano ieri, chiedendo una maggiore presenza delle forze dell'ordine per arginare un problema grave che riguarda la sicurezza di viaggiatori e personale in servizio. Tutto è cominciato quando il controllore sul treno S14 delle Ferrovie Nord, che proveniva da Expo verso Milano, ha chiesto i biglietti ad un gruppetto di ragazzi sudamericani. Questi 4 o 5, secondo le testimonianze, si sono rifiutati, hanno alzato la voce e poi uno di loro ha tirato fuori dallo zaino un macete, colpendo violentemente il controllore. L'uomo, 30 anni, è stato sottoposto ad un delicato intervento per salvargli il braccio. Ha invece un forte trauma cranico, il collega di 31 anni ha corso in suo aiuto e colpito alla testa. Dopo l'aggressione, il gruppetto, che farebbe parte di una gang di Latinos, è riuscito a scappare, ma due ragazzi sono stati fermati. Sui vestiti avevano tracce di sangue che ora saranno sottoposte ad analisi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo alla politica, perché quasi nel silenzio, in questo fine settimana, si vota. Li chiameremo i ballottaggi fantasma, quelli che si svolgono domenica in 78 città italiane. Le inchieste su Mafia Capitale, il commissariamento del Giubileo, la richiesta di arresto per il senatore Azzollini hanno certamente offuscato i temi politici locali e influenzato la campagna elettorale che termina questa sera. Solo 15 giorni fa le regionali finivano 5-2 per il PD, ma segnavano una netta avanzata della Lega, un sostanziale crollo di Forza Italia, una perdita di consensi numerici per PD e Movimento 5 Stelle. Invece il primo turno delle comunali assegnava 11 città al centro-sinistra, 8 al centro-destra, 12 a liste civiche di varie tendenze. Ma dove si terranno gli scontri politici più importanti? In primis, domenica si vota a Venezia. Al secondo turno, l'ex PM Felice Casson deve fare i conti con Luigi Brugnaro, del centrodestra. E i voti di Lega e Movimento 5 Stelle potrebbero fare la differenza tra i due candidati. In particolare, i pentastellati assicurano il proprio appoggio al candidato che accetta i loro 5 punti programmatici. Le altre sfide interessanti si tengono ad Arezzo, Chieti, Mantova, Rovigo, Matera. Non sarà un test per la tenuta della maggioranza e delle alleanze che sostengono il governo, ma domenica si potrà capire se ciò che è emerso alle regionali sarà confermato alle comunali, cioè la caduta dell'affluenza e il ruolo determinante della Lega in molte città del centro-nord. Così il nostro Daniele Biacchessi. Noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi torniamo a parlare di immigrazione. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Mafia Capitale, si ragiona su un commissariamento per il Giubileo. Il Premier intanto dice lotta senza quartiere alla corruzione. Immigrati e richiedenti asilo distribuiti in Veneto, Lombardia e Liguria in centinaia hanno dormito in stazione a Milano. La Germania si preparerebbe all'uscita della Grecia dall'euro, sostiene il tabloid tedesco Bild. Lavoriamo perché non avvenga, precisa Berlino. Aveva chiesto i biglietti ed è stato aggredito con un machete, ha rischiato di perdere un braccio, un capotreno a Milano. Buongiorno Marzio Favero, sindaco di Montebelluna, siamo in provincia di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno e benvenuto. È successa una cosa strana l'altro giorno, perché un pullman che portava dei... o richiedenti asilo o immigrati, insomma vedetela come volete, doveva portare questi immigrati a Mogliano Veneto. Si è perso, a quanto pare, questo autista del pullman e, non sapendo dove portarli, li ha scaricati nel parcheggio delle corriere esattamente di Montebelluna, cosa che mi sembra di abbastanza la misura di come viene gestita questa fase complessa di sbarchi e di arrivi. E lei l'ha saputo da Facebook, Favero? Sì, è stato il tam-tam di Facebook a far sì che io venissi a conoscenza del fatto che un gruppo di 14 migranti era stato lasciato sotto il sole nel parcheggio della locale stazione delle Corriere. La cosa mi ha sorpreso non poco, pensavo fosse la classica bufala, ho mandato la polizia locale, invece la polizia locale mi ha informato che c'erano queste 14 persone anche in stato di evidente difficoltà e fragilità. Ho mandato la protezione civile a portar loro acqua e poi cibo, perché non si trattano così degli esseri umani. Sono andato più tardi a salutarli anch'io, parlando con loro ho capito che erano stati assistiti in qualche modo dallo Stato, ma con esito alla fine assai infelice, direi, nel senso che parlando con loro in inglese ho scoperto che venivano dalla Nigeria, avevano attraversato il deserto, il mare, erano stati in un centro di accoglienza in Sicilia e poi portati su nella notte, deviati verso la stazione locale dei Carabinieri, ma alla fine lasciati invece presso quella le Corriere. Allora, che mi ha stupito di più è che nessuno si è preoccupato di avvertire il sindaco, che è la prima autorità. Questo è il primo elemento interessante, Favero. Il secondo elemento, vorrei una lettura da lei come amministratore locale. Poi già qualche ascoltatore dice assistenza umana, ricominciamo con i sindaci buonisti. In realtà Favero è della Lega, quindi diciamo forse l'accusa di buonismo non è esattamente azzeccata. Vorrei la sua lettura da amministratore locale di quello che sta succedendo. Allora, il fatto che io abbia solo alle ore 15 avuto informazioni dal prefetto che si trattava di una comitiva diretta da un'altra parte e poi dirottata a Montebelluna spiega le difficoltà tremende cui versano le prefetture. Ma questo disordine nasce, a mio modesto avviso, dal fatto che lo Stato italiano e gli altri Stati europei non hanno preso sul serio un dramma tremendo che non è riconducibile alla gestione emergenziale di un episodio. Stiamo parlando di una migrazione biblica dall'Africa verso l'Europa, dove l'Italia rappresenta il ventre molle, perché non ha mai praticato politiche serie nella gestione dell'emigrazione, come dimostra peraltro qualche episodio di cronaca davvero sgradevole degli ultimi giorni, no? Allora, qual è il dramma? Che intanto dovremmo cominciare a usare un vocabolario più corretto. Dovremmo distinguere fra immigrati, clandestini e profughi. Il grande poeta inglese Oden diceva che la violenza nasce dalla degenerazione del linguaggio. Allora, immigrato è chi arriva in regola, come è accaduto negli ultimi 30 anni nel nostro paese. Chi arriva in regola, perché vi sono occasioni di lavoro, può trovare un inserimento. Allo Stato spetta garantire l'identità di queste persone, alle comunità locali e quindi ai comuni il compito di integrarle. Guardate, io sono il sindaco di una città civilissima, Montebelluna, 32.000 abitanti, quasi 4.000 sono di origine extracomunitaria e sono ben inseriti. Sì. Lavorano, hanno fatto rete con le altre associazioni e quindi io posso dire che qui l'integrazione degli immigrati è avvenuta felicemente. È chiaro che l'immigrazione però non è infinita, nel senso che va legata alla capacità di un paese di ospitare lavoratori. Purtroppo negli ultimi anni, a causa della crisi, non siamo più in grado di ospitare quote di immigrati perché non c'è più lavoro nemmeno per i residenti. Sì. Diverso è il tema dei clandestini, che in Italia spesso si è voluto sommare al tema degli immigrati. Un clandestino è una persona che è qui senza documenti, o va a ingrassare la leva della microcriminalità o lavora in nero per qualche imprenditore disonesto. Ma chiarissimo, di questo tra l'altro ne abbiamo parlato già ieri anche con Achille Variati, sindaco di Vicenza, che lo abbiamo anche raccontato nei giorni scorsi, una posizione un po' dissonante, no, rispetto a quella del suo partito e dello stesso governo. Io però, al di là dell'inquadramento del problema generale, che devo dirle, Favero, ci è anche abbastanza chiaro, vorrei proprio capire da lei come state vivendo questa fase sul territorio? Malissimo, perché il prefetto di Treviso ci aveva chiesto alcuni mesi fa qual era la nostra posizione. Noi abbiamo detto che è una competenza dello Stato, la sua stessa ragion d'essere, garantire l'ordine internazionale e interno. Questo fenomeno che stiamo vivendo, che si chiama profugato o immigrazione clandestina, è un tema di competenza dello Stato, è quello stesso Stato che ci ha svuotato le casse e ci rende difficile ormai garantire i servizi minimi di assistenza alle persone in difficoltà, alle famiglie disoccupate. Vi do solo un dato. Sì, brevemente. Montebelluna di sola IRPEF versa allo Stato ogni anno 90 milioni di euro. 4 anni fa lo Stato mi restituiva la miseria di 4 milioni e mezzo di euro, quest'anno 480 mila, cioè un decimo. Sì. Si possono caricare i comuni di questioni che appartengono allo Stato per le quali non vi sono né le risorse economiche né le competenze? Non dimentichiamo che se arriva un profugo ha bisogno A, di un'azione di riconoscimento, B, di assistenza medico-sanitaria, C, di un mediatore culturale, D, di un programma di protezione se magari anche qualcuno di sensibile, D, di un luogo dove possa essere accolto in condizioni dignitose, umane. E per far questo, giustamente dice Favero, ci vogliono soldi. Io intanto la ringrazio, grazie a Marzio Favero, sindaco di Montebelluna, che magari nei prossimi giorni, nelle prossime settimane torneremo a sentire. Voglio salutare, e l'ho fatto attendere un po', gliene chiedo scusa, Claudio Palomba, che torna nostro ospite, è l'ex prefetto di Rimini e da ieri credo di Lecce, insomma sarà spostato a breve, presidente del SIMPREF, l'associazione sindacale dei funzionari prefettizi. Buongiorno prefetto. Buongiorno, grazie. E bentornato ai nostri microfoni. Insomma, ha sentito, cioè c'è una fase di gestione che a tutti noi, anche solo a vedere le foto della stazione di Milano, sembra folle. Che cosa sta succedendo? Allora, guardi, innanzitutto saluto il sindaco di Montebelluna e lo ringrazio per l'equilibrio con cui ha affrontato il problema, centrando molte delle problematiche che noi affrontiamo anche come prefettura, insomma. E conosco anche la realtà veneta perché ho scambi frequenti ovviamente con i colleghi. Parto dal primo episodio, che evidentemente, appunto, lo cito come episodio perché generalmente noi per esempio mandiamo il pullman a Bologna e a Bologna, assistito ovviamente dalle forze di polizia, dalla Croce Rossa eccetera, e fino a che non arrivano a destinazione noi non li molliamo, sappiamo dove devono andare, li accompagniamo anche nei posti dove da noi individuati. Quindi purtroppo evidentemente c'è qualche problema, diciamo, c'è stato qualche problema particolare per cui noi da tempo abbiamo segnalato la difficoltà anche delle prefetture, perché capisco benissimo i comuni in questo momento di crisi economica, ma ovviamente tenga presente che anche a noi sentivo appunto dell'avviso del prefetto poche ore prima noi a volte abbiamo comunicazione a 24 ore, se non addirittura anche a meno, a secondo voi lo vedete, sì, e della frequenza degli sbarchi. Poi c'è il trasporto nelle sedi o nelle regioni dove sono destinate, e noi stessi molto spesso veniamo investiti, servono ulteriori 30 posti. E l'ha ben specificato il sindaco, un'emergenza diciamo biblica sostanzialmente. Sì. Biblica. Quindi, che però va avanti diciamo da un tot di anni, prefetto, insomma, ecco, sì, nel senso che ogni adesso, estate, cioè non mi sentirei più nemmeno di chiamarla emergenza, perché ogni estate diventa un'emergenza. No, la chiamo emergenza per un motivo molto semplice. Lei ricorderà, l'emergenza Nord Africa fu affrontata con strumenti diversi. Sì. Dal lato delle prefetture le potrei dire, noi la stiamo affrontando con gli strumenti ordinari, là c'era stata un'ordinanza di protezione civile, a noi a oggi, ma non è questo l'aspetto, non facciamo rivendicazioni economiche, o arrivano di giorno o arrivano di notte, le prefetture sono allertate, come è allertato il sistema, perché non è solo la prefettura o il pullman o il comune. C'è il mediatore, sì, ci sono le visite preventive, appunto, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Quindi è un sistema che sta in qualche modo affrontando questa emergenza, che numericamente comunque, tanto i dati li avete, è sicuramente aumentata e sta aumentando e rischia di aumentare, sì, ulteriormente. Senta Paloma, qua sorge un sospetto però, qualche ascoltatore ci chiede informazioni su come funziona il riconoscimento, come questi vanno all'estero nel momento nel quale poi arrivano in Italia. Il sospetto che circola, e non da oggi, è che l'Italia non abbia, per così dire, tanta voglia di riconoscerli, di fare il riconoscimento, perché in questo modo questa gente transita senza essere riconosciuta e passa nei paesi dove vuole andare. Ma guardi, io le dico questo, è stato, voi sapete, esistono le commissioni territoriali per il riconoscimento, insomma, sì, è stato anche rinforzato. Sì. Io dico che il sistema è ancora molto carente, i tempi sono lunghi, le istruttorie sono lunghe, se c'è il diniego rimane comunque sul territorio italiano fino a che non c'è il giudizio, e allora se questa è un'emergenza, 20 commissioni territoriali sono assolutamente insufficienti. Decisamente poche. Significa che tra l'altro di queste 20, ma io l'ho rappresentato anche all'amministrazione, di queste 20 non tutti sono adibiti esclusivamente a questo, sì, compito. Allora in Italia dobbiamo capire una cosa, la gente deve lavorare laddove c'è la necessità. Sì. In questo momento me ne servono 103, una provincia probabilmente. Grazie Claudio. Sì, devo andare a chiudere purtroppo. Paloma, se vuole aggiungere qualcosa in 10 secondi veramente. E quindi le dicevo, insomma, purtroppo, sì, stiamo lavorando nell'ordinarietà. Probabilmente c'è da valutare se un'ordinanza che copra tutta l'attività necessiti o meno. E poi il grosso problema, sì, è un problema più politico praticamente, sì, e noi li dobbiamo, devono rimanere in Italia, perché una volta entrati nel nostro territorio, sì, ovviamente, e qui andiamo, quello è tutto un altro conto, e ci spostiamo appunto anche a livello di trattative europee. La ringrazio Claudio Palomba, presidente del SIMPREF, l'associazione sindacale dei funzionari prefettizi e prefetto di Lecce. Noi ci fermiamo per una pausa. Solo una piccola nota all'ascoltatore che scrive: è corretto usare il termine clandestino? Dipende dalla condizione della persona che arriva in Italia. In alcuni casi sono richiedenti asilo, in altri casi sono effettivamente clandestini, cioè persone che entrano nel nostro paese senza documenti, in altri casi sono persone che entrano regolarmente nel nostro paese, non è il caso probabilmente di quelli che arrivano con i barconi evidentemente, e poi successivamente, dopo essere stati richiedenti asilo, possono essere classificati come profughi se vengono riconosciuti effettivamente come tali. Pausa la borsa, ci ritroviamo subito dopo e parliamo di sicurezza nel mondo delle ferrovie, perché ieri c'è stata una bruttissima aggressione ad un capotreno, gli hanno quasi tagliato un braccio con un macete perché chiedeva i biglietti, molto semplicemente, faceva il suo mestiere. Bene, sono 140 le aggressioni a personale delle ferrovie dall'inizio dell'anno, ne parliamo tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Mafia Capitale, si ragiona su un commissariamento per il Giubileo. Il premier intanto dice lotta senza quartiere alla corruzione. Migrati richiedenti asilo distribuiti in Veneto, Lombardia e Liguria. Zaia dice non vengano portati nelle località turistiche. Jobs Act, passi avanti sulla cassa integrazione e conciliazione, dice il segretario della CGIL Camusso dopo l'approvazione dei decreti attuativi. La direzione è giusta, secondo il presidente di Confindustria Squinzi. La Germania si preparerebbe all'uscita della Grecia dall'euro, sostiene il tabloid tedesco Bild. Il Fondo Monetario abbandona il tavolo delle trattative. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E torniamo su una vicenda di cronaca della quale vi abbiamo già parlato nella prima parte, vogliamo ritornarci con un approfondimento, è la vicenda del capotreno aggredito con un macete mentre chiedeva i biglietti a tre persone, due di queste sono state portate in questura, aggredito con un macete, appunto ha rischiato di perdere un braccio, per il momento l'operazione pare che sia andata bene, nelle prossime ore vedremo come sta effettivamente. Saluto Stefano Savino, buongiorno. Buongiorno. È direttore centrale risorse umane e organizzazione di FS Italiane. Tra l'altro avete fatto poco fa un comunicato nel quale dite le aggressioni nei primi 5 mesi dell'anno al personale del nostro gruppo, che comprende anche Trenitalia ovviamente, sono state 140. Aggressioni che però mi sembra di aver capito comprendono non necessariamente l'aggressione fisica ma anche la sola aggressione verbale. Assolutamente sì, sì. Minacce, ingiurie. Le aggressioni fisiche per fortuna non sono la maggioranza in questo tipo di episodi, però comunque sono di per sé gravi. Quello di ieri sera è stato un episodio gravissimo, mai accaduto in precedenza, per cui sì. È un segnale d'allarme ulteriore. Particolarmente grave, ovviamente sta montando un po' di politica su tutto questo, il presidente della Lombardia che dice se necessario bisogna sparare, però vorrei tenerla fuori ovviamente da questo anche per il suo ruolo e chiederle invece che cosa concretamente di che cosa concretamente avete bisogno voi e ha bisogno il vostro personale per operare in sicurezza? Allora, intanto noi come Ferrovie dello Stato con tutte le società del gruppo abbiamo messo in pista tutta una serie di azioni che tendono innanzitutto a cercare di prevenire questi fenomeni attraverso una formazione continua al nostro personale che serve per arginare, trovare comportamenti che siano i migliori possibili per evitare che questo tipo di aggressioni possa avvenire. Quello che serve però, specialmente su alcune tratte, su alcuni treni, in alcuni orari, è una presenza più forte delle forze dell'ordine che devono garantire la sicurezza. Sì, tra l'altro questo era un treno che arrivava da Expo e quindi insomma non è che stiamo parlando proprio di una cosa, no? Ma in effetti, tra l'altro la Lombardia non è una delle regioni nelle quali i fenomeni delle aggressioni risultano più marcati, ce ne sono altre. Dove si concentrano particolarmente? Soprattutto Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Campania e Toscana. Lazio, Roma immagino, soprattutto in quella. Esattamente, nell'intorno di Roma. Ci vogliono più forze dell'ordine sui treni, questo dite direi in sostanza. Sì, direi di sì, cioè l'intervento delle forze dell'ordine è fondamentale. Noi insieme alle organizzazioni sindacali abbiamo messo in pista una serie di azioni rafforzando il personale di bordo sulle tratte dove sono più evidenti questi fenomeni, sui treni più critici. In alcune situazioni abbiamo creato delle squadre volanti che accompagnano il personale di scorta al treno in modo tale da creare un deterrente ulteriore, però le testimonianze delle 140 aggressioni nei primi 5 mesi di quest'anno dicono che non è sufficiente, bisogna fare ancora di più. E in questo l'aiuto delle forze dell'ordine è fondamentale. E certo, e aggiungiamo noi, Savino, brevemente, che non stiamo parlando di personale qualsiasi, stiamo parlando di personale che viaggia sui treni e quindi se aggiungi forze dell'ordine su tratte particolarmente pericolose fai anche il bene di chi ci viaggia su quelle tratte. No. Tutela dei cittadini e dei lavoratori di Ferrovie dello Stato. La ringrazio, grazie a Stefano Savino che, lo ripetiamo, è direttore centrale risorse umane e organizzazione di FS. Una piccola nota, l'ascoltatore ha già scritto qualche minuto fa quando abbiamo parlato dei temi dell'immigrazione, ci dice, ci fa notare, non esiste più il reato di clandestinità. Lo sappiamo benissimo che non esiste più il reato di clandestinità, però comunque esiste quello che potremmo definire l'ingresso illegale nel nostro paese, che viene punito molto semplicemente non con il carcere o altro, ma viene punito con l'espulsione, ossia se entri illegalmente nel nostro paese e sei un extracomunitario puoi essere espulso anche se non esiste il reato di clandestinità. È per questo che abbiamo parlato di clandestini, di immigrazione clandestina. Ci fermiamo, c'è il traffico, ci ritroviamo tra poco.